potessimo tornare al ricordo che hai di me. Alle cose come sono o come erano prima di distruggerle, prima che se potessimo scappare dall'idea che avrò di te, prenderci le mani con la voglia di tenerle il più possibile, se riuscissimo a trovare ancora quell'ingenuità che ti fa sentire a casa anche non avendola, e senza sforzo fingere di non sapere già com'è che andrà. Sapessimo guardarci con un po' di gelosia, quella sana, quella semplice, la paura che si possa facilmente andare via e cercare di stupirsi e poi arrabbiarsi e poi lasciarsi senza mai riuscirci e farsi dei discorsi giuro assurdi per poi ritrovarsi stretti che non ti lascerò mai, capisci mai? Se anche fossimo sicuri che la colpa è stata solo mia, cambierebbe qualche cosa, resterebbe solo il peso della tua malinconia. Potessimo tornare al ricordo che hai di me, alle cose come erano prima.